Economia. Con Vincenzo Miglietta. Diciassette e zero sette, ben trovati da Vincenzo Miglietta. Ultima puntata del 2016 di Focus Economia, che ritroverete però già il prossimo lunedì 2 gennaio, sempre alla stessa ora. Chiusura di settimana e di anno intanto anche per i mercati, e allora è tempo di bilanci. Gli indici FTSE All Share e FTSE MIB per Piazza Affari fanno segnare rispetto ad un anno fa rispettivamente meno 9,6% e meno 9,68%. In termini di ricapitalizzazione sono stati persi dunque 42 miliardi, numeri questi che potevano anche essere peggiori se non ci fosse stato un brillante mese di dicembre. Approfondiremo tutto questo più tardi, ora andiamo all'attualità con una rapida fotografia di quanto sta avvenendo invece oggi sui listini. Pochi, ve lo anticipo, in generale i movimenti. In questo momento Milano FTSE MIB più 0,42%, FTSE All Share più 0,45%. I migliori e i peggiori sempre del FTSE MIB, velocemente: Unipol, Mediaset, Salvatore Ferragamo, Saipem e A2A. I peggiori: Terna, Buzzi, Unicem, Banca Mediolanum, Ricordati e Fineco Banca. I titoli più scambiati: Intesa San Paolo, Eni Enel e Fiat Chrysler, e poi a seguire tutti gli altri: Mediaset, Unicredit. Per gli altri listini europei, clima decisamente prefestivo. Considerate che per esempio Francoforte e Londra hanno anticipato la chiusura. Francoforte si è fermata ad un più 0,26%, Londra più 0,32%, Parigi in questo momento più 0,35%, Madrid più 0,09%. Wall Street poi: Dow Jones invece in terreno negativo, meno 0,12, Standard & Poor's 500 meno 0,22, il Nasdaq meno 0,64. I cambi euro su dollaro 1,0555, poi un dato che ci interessa in particolar modo: i titoli di Stato, il BTP nei confronti del Bund tedesco. In questo momento 164,10 punti, più 0,55%, ma quello che interessa maggiormente è il rendimento, a più 1,83. Sin qui dunque gli andamenti dei mercati, ma nella puntata di oggi spazio alla vicenda all'Italia, con quella che viene definita come la terza ristrutturazione in meno di 10 anni. In ballo non ci sarebbero solo tagli alle tratte, a partire dalla cancellazione della Fiumicino-Malpensa, ma in termini di posti di lavoro si parlerebbe di 1.600 esuberi potenziali. E poi parleremo anche oggi di banche, il caso Monte dei Paschi di Siena, il via libera europeo alla liquidità, quali potrebbero essere soprattutto gli assi portanti del piano industriale, e soprattutto allargheremo il discorso all'intero comparto del credito del nostro paese per capire quale ne sia lo stato di salute. Potete scriverci, lo ricordo, al 349-238-6666 oppure sul sito di Radio 24. Passiamo ora alle notizie in breve. E partiamo dalle materie prime, con la quotazione dell'oro a $1,159 l'oncia, con un più 0,1%, il petrolio in calo a New York a $53,68, con la quotazione che calano dello 0,09%. Oggi molto spazio all'economia italiana. Per quanto riguarda quella internazionale non vi è qualcosa di specifico, ma dobbiamo segnalare le tensioni nel passaggio di consegne negli Stati Uniti tra l'amministrazione Obama e quella Trump. Sappiamo della spy story tra Stati Uniti e Russia. Oggi Trump commenta: molti pensano che le sanzioni dell'amministrazione Obama contro la Russia per gli hackeraggi durante le elezioni mirino a intrappolare Trump e ridurre il suo margine di manovra. Lo ha detto alla CNN uno dei consiglieri del tycoon americano, Kellyanne Conway. Sarebbe triste se la principale motivazione fosse politica, non è così che funziona un'amministrazione pacifica nella nostra grande democrazia. E veniamo all'economia italiana. Abbiamo detto del buon andamento del rapporto BTP-Bund tedeschi. Per quanto riguarda invece un dato che ci arriva dalla Banca d'Italia, a dicembre l'indice Eurocoin registra il settimo incremento consecutivo, raggiungendo quota 0,59 da 0,45 di novembre. Si tratta del livello più alto dalla primavera del 2011 e dell'incremento mensile più forte dal dicembre 2015. Lo rende noto quindi Banca Italia, sottolineando che l'indicatore ha beneficiato del miglioramento della fiducia di famiglie e imprese e del contributo positivo derivante dall'aumento delle pressioni all'origine sull'inflazione. Anche oggi poi i dati molto interessanti che arrivano dall'Istat sulla prospettiva di crescita e sui segnali positivi per la nostra economia. L'indicatore anticipatore dell'attività economica registra allora una ripresa, delineando una prospettiva positiva del ritmo dell'economia nei prossimi mesi, e quanto si legge nella nota mensile sull'economia dell'Istat, che sottolinea come nel settore manifatturiero si sia registrato sia un aumento degli ordini nativi a ottobre, più 0,9% rispetto al mese precedente, sia un miglioramento della fiducia a dicembre. Anche per i consumatori si è evidenziato un miglioramento della fiducia nel mese di dicembre. Sempre l'Istat, mentre nell'area euro l'incremento dei ritmi produttivi prosegue su toni moderati, in Italia si consolidano i segnali positivi. All'aumento degli ordinativi del settore manifatturiero si associa il diffuso miglioramento dei giudizi dei consumatori. Su questa fotografia dell'Istat sentiamo allora l'intervento di Fabio Bacchini, dirigente del Dipartimento Produzione Statistica dell'Istat. Lo ha ascoltato per noi la collega Teresa Trillò. Noi ci aspettiamo un proseguimento delle tendenze che si sono già positive, che si sono già manifestate nel terzo trimestre con la crescita del PIL. Per il momento quello che abbiamo notato è che c'è comunque una leggera ripresa degli ordinativi, soprattutto per il settore manifatturiero, e anche dei giudizi delle imprese sul manifatturiero, associato anche a una ripresa dopo alcuni mesi negativi dei giudizi dei consumatori. Questi fattori, insieme, legati anche a un minimo di tenuta dell'export nei paesi extra UE, ci fanno pensare che soprattutto il settore manifatturiero possa proseguire ad avere una performance positiva, il che porterebbe a un proseguimento della tendenza positiva dei mesi precedenti. Queste dunque le prospettive di crescita secondo l'Istat, e ancora i dati dall'Istituto di Statistica. In questo caso parliamo della paga oraria media. La differenza tra uomini e donne si attesta a 14,1 euro la media delle retribuzioni lorde orarie nel 2014, lo rileva l'Istat nel suo primo rapporto sui differenziali retributivi nel settore privato, sottolineando che la forbice fra il 10% delle retribuzioni orarie più elevate e il 10% delle posizioni lavorative con retribuzione più bassa è di almeno 12,7 euro. I dirigenti hanno una retribuzione oraria pari a circa 5 volte quella delle professioni non qualificate e oltre 3 volte superiore alla media. Per i dirigenti maschi la retribuzione oraria è oltre una volta e mezzo quella delle dirigenti femmine. Le posizioni retributive delle donne sono svantaggiate rispetto agli uomini a tutti i livelli. In generale il differenziale retributivo delle donne rispetto agli uomini è negativo e pari al 12,2%. Dati relativi all'industria ora. Novembre 2016 l'indice Istat dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali diminuisce dello 0,1% rispetto al mese precedente e dello 0,3% nei confronti di novembre 2015. I prezzi dei prodotti venduti sul mercato interno diminuiscono dello 0,2% rispetto a ottobre e dello 0,3% su base tendenziale. Il tema dei voucher. In 9 anni, dal 2008 al 2016, l'uso dei voucher ha registrato una crescita esponenziale pari a più 27.000%. Secondo i dati diffusi dalla UIL, nel 2008 vennero venduti 535.985 voucher. Poi, con la progressiva estensione del buono lavoro a quasi tutti i settori privati, quest'anno si è toccata quota 145.367.000. Un incremento non da poco, abbiamo detto 27.000%. Per quanto riguarda le pensioni, la riforma delle pensioni attuata in Italia riduce l'onere legato all'invecchiamento della popolazione, ma il debito elevato resta un ostacolo, è quanto si legge in un report di Standard & Poor's. Ed ancora un dato molto interessante per quanto riguarda l'inefficienza della pubblica amministrazione, che costa oltre 30 miliardi di euro all'anno di mancata crescita. La denuncia dell'ufficio studi della CGA di Mestre, che richiama l'esito di uno studio realizzato dal Fondo Monetario Internazionale. Il risultato poggia sulla tesi secondo la quale, se la nostra amministrazione pubblica avesse in tutta Italia la stessa qualità nella scuola, nei trasporti, nella sanità, nella giustizia che ha nei migliori territori, il PIL nazionale aumenterebbe di 2 punti, ovvero di oltre 30 miliardi di euro all'anno. Il forte divario esistente tra il nord e sud Italia sulla qualità e quantità dei servizi erogati dalla nostra pubblica amministrazione emerge anche dall'analisi degli artigiani, sempre di Mestre, su dati relativi ad un'indagine condotta dall'Unione Europea sulla qualità a livello territoriale della pubblica amministrazione. E rispetto ai 206 territori rilevati da questo studio, 7 regioni del Mezzogiorno si collocano nelle ultime 30 posizione. Ricordiamo che diventa operativa dal 1 gennaio la riduzione da 5 a 4 dei corpi di polizia. Scatta infatti l'accorpamento della Guardia Forestale ai Carabinieri, con circa 7.000 forestali che passeranno all'arma secondo le graduatorie pubblicate oggi sul portale della mobilità della funzione pubblica. Siamo proprio in procinto dell'ultimo dell'anno e allora a dare qualche numero è la Coldiretti. 4,5 milioni di italiani trascorreranno il Capodanno fuori casa, con un aumento di circa il 10% rispetto allo scorso anno, e quanto emerge da un'indagine della Coldiretti, dalla quale si evidenzia inoltre che resta in Italia l'80% dei vacanzieri. A pesare sulle destinazioni, sottolinea la Coldiretti, sono i drammatici episodi di terrorismo internazionale che condizionano quest'anno la scelta delle vacanze di più di un italiano su 5, e tra questi un terzo non andrà in paesi esteri considerati a rischio e un quarto eviterà le grandi città nelle feste di fine anno. Sempre secondo questo studio, quasi 2 vacanzieri su 3 hanno scelto di alloggiare in case proprie, di parenti ed amici o in affitto, mentre solo il 26% sceglie l'albergo e crescono le formule alternative. Rapidamente, prima di passare al nostro primo approfondimento, torniamo sui dati 2016 della borsa, che però andremo anche ad analizzare poi nel nostro ulteriore spazio. Il 2016 si chiude in rosso per Piazza Affari. I dati di borsa italiana nella consueta review dei mercati segnano un calo sia dell'indice FTSE All Share che del FTSE MIB, ma quello che interessa maggiormente è che la capitalizzazione complessiva delle società quotate si attesta a 524 miliardi di euro, pari al 31,8% del PIL, a fronte dei 567,6 miliardi di fine 2015. La borsa di Londra chiude il 2016 segnando un nuovo massimo storico. L'indice FTSE 100, che oggi ha terminato, lo ricordavamo, in anticipo le contrattazioni. Nell'anno della Brexit, il listino londinese, con un rialzo del 14,4% da inizio 2016, sale sul podio delle migliori borse europee. Ancora 2 notizie di borsa. Nel corso del 2016 Piazza Affari ha registrato 14 offerte pubbliche iniziali, quasi dimezzate rispetto alle 27 del 2015. E tante offerte pubbliche di acquisto a Milano nel 2016, le OPA lanciate nel corso dell'anno, segnala la borsa italiana, sono state ben 16 a fronte delle 7 offerte lanciate nel 2015. E per le notizie in breve è tutto, passiamo ora al nostro primo approfondimento. Ricordo il 349-238-6666 per i vostri sms. Del nostro primo approfondimento parliamo con il collega Gianni Dragoni del Sole 24 Ore. Buonasera Gianni e grazie della tua disponibilità. Ciao, buonasera. Parliamo con Gianni, lo avrete capito perché sappiamo di cosa scrive sempre Dragoni, ovvero molto e soprattutto dei trasporti di Alitalia. Le notizie delle ultime ore ci dicono che salta la rotta Alitalia che collega Malpensa a Fiumicino. Dal 1 febbraio niente più voli tra gli aeroporti di Milano e Roma. La scelta dell'azienda è dovuta a ragioni economiche, la tratta perderebbe poco meno di 6 milioni l'anno e sempre motivazioni di cassa sono alla base dello stop agli automatismi di carriera per 3.800 dipendenti. Allora Gianni, questi sono alcuni elementi che possono contribuire alla nostra discussione. Leggendo il tuo articolo oggi sul Sole 24 Ore ci ricordi, che così torniamo un po' indietro nel tempo, che siamo dal 2008 di fatto alla terza ristrutturazione. Questo è l'antipasto, quello che hai ricordato, che è stato servito del piano di ristrutturazione non ancora, diciamo, svelato ufficialmente in tutti gli aspetti, ma saranno aspetti, si prevede purtroppo, pesanti ancora una volta, soprattutto per i lavoratori. Devo dire che le due precedenti ristrutturazioni, 2008-2014, tutte le volte veniva annunciato, promesso, come dire, un rilancio che non c'è stato. C'è da chiedersi anche se sia questa la strada corretta da fare o no. Adesso noi registriamo come cronaca che comunque purtroppo si va a un nuovo piano di ristrutturazione e il numero degli esuberi, che viene tenuto accuratamente segreto, però come minimo si parla di 1600 tagli, certo, ma forse potrebbero essere molti di più. Perché ecco Gianni, lo scrivi tu, lo leggiamo un po' da tutte le parti, ma comunque un primo intervento vorrebbe una ristrutturazione per 500 milioni, bisogna capire quindi questi 500 milioni dove l'azienda li vorrà trovare di fatto, se insistere su costi di funzionamento in generale o in larga parte sul costo del lavoro, e parlavi ecco proprio di 1600 dipendenti che potrebbero essere coinvolti. Questa cifra, 500 milioni, diciamo, di tagli o risparmi, nasce da una constatazione che l'Alitalia ha una differenza tra costi e ricavi intorno ai 500 milioni. Quest'anno la cifra non è ancora ufficiale, ma la perdita prevista è di almeno 400 milioni, penso, di euro prima di eventuali voci straordinarie. Quindi la gestione perde una somma enorme, più di un milione al giorno in media, possiamo dire. L'anno prossimo la perdita sarebbe sopra i 500 milioni. Il piano, da quello che sappiamo, prevede anche un intervento per cercare di far aumentare i ricavi. Questa però è l'azione più difficile, è quella che anche nei piani precedenti, anche quello attuale di IAD, che prometteva o prevedeva, secondo i punti di vista, l'utile nel 2017, che invece non ci sarà perché la compagnia perderà 500 milioni e più l'anno prossimo, prevedeva uno sviluppo dei ricavi che invece non c'è stato. Perché? Perché la concorrenza è stata più forte, l'Alitalia non ha fatto certi investimenti, comunque non ha saputo incrementare i ricavi. Quindi i 500 milioni che ballano, il piano prevede di trovarli in una riduzione costi che sono ancora tutti da definire, non sono solo il costo del lavoro ovviamente. Il costo del lavoro potrebbe esserci un intervento intorno ai 150 milioni su questi 500, gli altri 350 sarebbero risparmi dei contratti con i fornitori, se i fornitori accetteranno ovviamente una riduzione di quello che loro incassano, aeroporti, leasing di aeroplani, distribuzione. Certo, Gianni, ma è emblematico anche il tagliare alcune tratte, per esempio leggevo che tra Fiumicino e Malpensa, lo abbiamo anticipato, non vi sarà più un collegamento dell'Alitalia. Ricordiamo, in Fiumicino e Malpensa sono due hub poi per il lancio per gli aeroporti internazionali, ed è molto originale che l'Alitalia, non chiamiamola più compagnia di bandiera perché la concorrenza è molta, però non abbia e non consenta ai propri consumatori un collegamento del genere. È sicuramente un annuncio che sorprende, ma Malpensa nell'attuale assetto di rete dell'Alitalia non ha più quella centralità che in passato per qualche tempo aveva avuto, anche se negli aeroporti del nord Italia è l'unico, cioè è l'aeroporto intercontinentale dell'area milanese, è l'aeroporto intercontinentale perché da Linate non si possono fare voli intercontinentali. Certo. Poi chiaramente c'è l'aeroporto di Venezia nel nord Italia che ha invece un discreto volume di intercontinentale. E all'Italia sì, certamente ha detto taglia questa rotta perché perde quasi 6 milioni all'anno. In un bilancio di una compagnia che perde 400 milioni o 500 milioni l'anno prossimo, io credo che la domanda da fare all'Italia sarebbe qual è la rotta che non perde, perché non sono certo solo, non sono solo quei 6 milioni. Sì, va detto sì, che anche EasyJet, compagnia low cost che ha dei risultati con dei profitti, ha deciso di sospendere tra qualche mese anche lei questa rotta. Quindi da Malpensa, dall'area diciamo di Varese, non ci saranno più voli per Roma, a meno che nel frattempo non ci sia qualcuno, qualche altra compagnia che decide di farli. Certo. Gianni, ecco, dopo mi piacerebbe allargare con te, ci sganciamo un attimino dall'Italia, ma per andare proprio in generale al mercato aereo del nostro paese, quindi capire dove sta andando. Ma tornando sempre, rimanendo su all'Italia, abbiamo detto terza ristrutturazione dal 2008 in poi, ricordiamo i famosi capitani coraggiosi, così furono definiti dalla stampa, e poi via via la Good Company, la Bad Company, fino a questa ristrutturazione che è stata annunciata in queste ore, ma comunque ricordiamo il CDA della compagnia del 22 dicembre. Allora, siamo noi che parliamo sempre di Alitalia perché giustamente è quella che ci interessa di più, o l'Alitalia vive un decennio anomalo rispetto ad altre compagnie? Ovvero, quello che sta succedendo ad Alitalia succede anche ad altre compagnie famose, o è un casus particolare? Vorrei ricordare una cifra: la IATA, l'Associazione Mondiale del Trasporto Aereo, che raggruppa compagnie di tutto il mondo che valgono più dell'80% del traffico mondiale, ha stimato per quest'anno che tutte le compagnie aeree mondiali, sommando i loro risultati, diano un risultato aggregato con profitti per netti, quindi al netto delle tasse, per circa o poco più di 35 miliardi di dollari, e questo, se sarà confermato, sarà il risultato migliore in tutta la storia del trasporto aereo del mondo. Quindi la risposta, partendo da questo dato, è chiaramente che la situazione di Alitalia è un'eccezione, non è l'unica, ma è tra le poche compagnie, le compagnie del mondo sono centinaia, diciamo, certo, quindi diverse certo. centinaia, tra le poche compagnie che perdono, ma soprattutto perdono molti soldi. All'Italia oggi, purtroppo, se non ci fosse un intervento di sostegno e un nuovo intervento degli azionisti, tra poco si troverebbe ad essere effettivamente una compagnia al collasso, dovremmo dire fallita. Quindi possiamo dire che altre compagnie italiane purtroppo hanno altrettanto. Meridiana, nella quale dovrebbe forse entrare Qatar Airways, anch'essa è in condizioni molto negative, quindi sembra un po' una condanna per molte compagnie italiane questo dei risultati di bilancio molto negativi. Non è così per altre compagnie straniere, in Germania, in Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Spagna. Certo, quindi la situazione di Alitalia, ma anche di Meridiana, ecco, qui volevo allargare il discorso alle altre compagnie che operano nel nostro paese, non è un fatto e frutto della crisi internazionale dal 2007 in poi, ma sembra essere abbastanza un'unicità. Eppure ci vorrebbe poco, forse, a copiare e vedere quello che fanno gli altri. Visto da fuori, anch'io direi che bisognava comportarsi diversamente. È strano che, tra l'altro, un paese che ha una forte attrazione turistica e quindi ha comunque un traffico di viaggiatori, un volume che aumenta ogni anno, non sia in grado di esprimere almeno una compagnia, ma anche due, potrei dire, che siano in grado di resistere e stare sul mercato. Ma credo che purtroppo, quando, se parliamo soprattutto di Alitalia, i conti prendono una piega negativa che c'è da molti anni, ma negativa in picchiata. Sono state fatte ristrutturazioni che però hanno solo, credo, peggiorato la situazione, perché poi taglia un pezzo, taglia un altro, si è persa la dimensione industriale, non c'è più una strategia che serva anche a creare un modello di sviluppo, certo, o una strategia coerente, per cui ogni tanto tagli un pezzo ma le cose continuano ad andare male. Gianni, ti chiedo la gentilezza di restare con noi altri 5 minuti, noi ci fermiamo un attimo e do la linea al meteo. Focus Economia. 17.34 Focus Economia, stiamo parlando di Alitalia, lo facciamo con Gianni Dragoni, collega del Sole 24 Ore. Gianni, al 349-238-6666 sono tanti gli sms che ci chiedono, dei nostri ascoltatori che ci chiedono di Alitalia, e allora giro a te queste domande. Alitalia, costo del lavoro troppo alto, perché l'Alitalia non può fallire, si dà un giudizio negativo da parte dei nostri ascoltatori sugli amministratori degli ultimi 30 anni e poi si dice sindacalizzata, clientelare, inefficiente. Cosa possiamo dire su questo? Inefficiente sicuramente. Sindacalizzate, i sindacati ci sono, come ci sono anche in altre compagnie, ci sono anche alla Lufthansa, alle France KLM e British Airways, che hanno dei risultati diversi. Il costo del lavoro, ecco, mi vorrei rispondere magari su questo. Sì. Non credo che dopo gli interventi che sono stati fatti anche in passato si possa dire che il costo del lavoro è la causa principale o è sproporzionato. Il costo del lavoro è di circa 600 milioni all'anno su un bilancio che ha ricavi intorno ai 3 miliardi o qualcosa di meno all'anno. Quindi il costo del lavoro è stato ridotto, se uno guarda a compagnie come Ryanair, EasyJet, che hanno dei costi più bassi o comunque una produttività più alta, cioè volano più ore eccetera, ma anche un aereo quando arriva si svuota, si riempie, riparte, sta fermo meno tempo. Certo. Sulla pista, e quindi viene sfruttato di più il capitale investito, quindi anche questi sono aspetti che si dice che nel piano in preparazione vengono affrontati. Si tratta di vedere se rispetto al piano poi l'esecuzione e l'attuazione sarà quella o no. Quindi questa ristrutturazione toccherà di nuovo anche i lavoratori, perché è previsto un ridimensionamento della compagnia, forse verranno messi a terra, se il piano non cambia, anche un certo numero di aerei a medio raggio. Era previsto 13 aerei a medio raggio in meno, cioè gli Airbus 320, quelli che si usano in genere sulle rotte italiane e europee, e forse un paio di aerei a lungo raggio in più. Questo, ecco, credo che sia invece il punto su cui si dovrebbe puntare l'attenzione, cioè in questi anni tutte le compagnie hanno sviluppato, tu hai ricordato dal 2008 in poi, cioè hanno comunque sviluppato i voli intercontinentali, che sono quelli nei quali le low cost, certo, più remunerativi, non ci sono, e comunque una rete intercontinentale per una compagnia di questo tipo deve essere servita, alimentata anche dai voli brevi dalle città che non sono i hub principali, certo, come certo. Può essere Fiumicino o un altro. Tu quindi, se tagli tutta la rotta, la flotta, non hai più questi voli, o te li fa un altro, oppure non ci puoi puntare. Un piano che combini in un modo il più efficiente possibile, potendo intervenire anche o sul recupero di produttività o su certe riduzioni di costo del lavoro, però l'Alitalia ha già ridotto molto, quindi ci sono anche degli stipendi bassi, quindi pensare secondo me che si debba solo tagliare e abbattere le persone, certo, non credo che sia la strada, Gianni, più corretta. Per fare chiarezza, ultime due domande e ti trattengo veramente un minuto, velocissimi. Quando si parla, anche i nostri ascoltatori ce lo scrivono, di fallimento, vogliamo chiarire qual è oramai il rapporto che ci può essere tra lo Stato italiano ed Alitalia, perché leggo anche di un probabile incontro del Presidente del Consiglio Gentiloni con l'amministratore delegato di Alitalia Kramer Ball. E poi un'ultima domanda, che tipo di mercato è destinato ad avere quindi il nostro paese? Si parlava anche forse di una sovrapposizione tra Alitalia e Ryanair per il mercato italiano. Queste ultime due domande. In un minuto forse non si riesce a rispondere a tutto, ma l'incontro sarà il 4 gennaio, anche se ufficialmente non è confermato, ma è previsto e stanno lavorando per questo. Gentiloni con alcuni ministri, tra cui Padoan, vuole farsi un'idea del piano anche per l'impatto sociale, ma anche sui tagli, ma anche le implicazioni nel rapporto con i sindacati. Quindi non c'è un intervento. Non è previsto un salvataggio come nelle banche nel Monte dei Paschi di Siena. Lo Stato, perché è completamente privata l'Alitalia, ricordiamolo. È completamente privata, ecco. C'è stato tuttavia nel 2014 un intervento delle Poste, che sono una società statale, all'epoca erano anche il 100% statale. Governo Letta decise di far intervenire le Poste per aiutare la ricapitalizzazione, quindi le Poste hanno messo una somma, però attraverso obbligazioni, quindi se se l'Alitalia sopravvive, loro sono creditrici di 75 milioni che attualmente producono anche interessi, quindi le poste stanno guadagnando circa 5 milioni all'anno da questo. Cioè, sembra assurdo, ma è così, c'è chi guadagna, che perde, certo, ci guadagna. Quindi hanno in questo caso hanno gestito bene questo investimento, come poi è da vedere alla lunga cosa succederà. Però ecco, quello è certo, quindi questo incontro per il momento non è finalizzato a un intervento pubblico, a un salvataggio, è finalizzato a capire, cioè anche a farsi un'idea del piano, perché comunque l'Italia chiede comunque al governo di essere sostenuta, come? Ma ad esempio credo nelle trattative per sbloccare l'accordo con Air France e Delta sul Nord Atlantico, che ad oggi non consente all'Italia di aumentare i voli, le frequenze, le destinazioni senza il consenso della compagnia Delta americana. Certo. Non so il governo cosa potrà fare, secondo me poco, ma comunque c'è anche questo discorso sul tavolo. Il discorso Ryanair modello. Allora, c'è stato un incontro abbastanza sorprendente tra l'amministratore delegato della Ryanair e quello di Alitalia, almeno entrambi parlano inglese, quindi forse questo si saranno capiti. Ci saranno capiti, non credo che si siano messi d'accordo, comunque Ryanair si è offerta di dire: tu hai un problema di medio raggio, hai dei costi troppo alti, ti porto io i passeggeri a Fiumicino o in un altro aeroporto, per esempio Malpensa, per fare il lungo raggio con i tuoi aerei. E Ryanair ha chiesto 40 euro per ogni passeggero, che obiettivamente non è una cifra alta, all'Italia non riesce con 40 euro a guadagnare. Certo, certo. Ma credo che dietro questa proposta, che non è che ci sia stata una risposta, ma non credo che ci sia l'intenzione di accettarla, però è andato a sentire Ball, credo che ci sarebbe forse un trucco. E quale potrebbe essere? Potrebbe essere che Ryanair, con la sua abilità, siccome poi venderebbe i biglietti anche per tutto il viaggio, probabilmente con le sue capacità, dal suo punto di vista secondo me anche abilmente, potrebbe, come dire, impadronirsi, come dire, dell'elenco dei clienti intercontinentali di un'altra compagnia, e forse dopo qualche anno assorbirne almeno una percentuale, forse lei fa il lungo raggio. Quindi è all'Italia che deve, con le sue forze, riuscire comunque ad essere più competitiva. La competizione non è solo sui costi, ma anche sul servizio che si può offrire, che quello dell'Italia può migliorare. Certamente volare con una compagnia low cost estrema, in questo caso non voglio fare il nome, non è un po' più scomodo che volare con una compagnia per quanto tradizionale. Certo. Quindi anche questo è un aspetto che i passeggeri possono considerare. Devono considerare e tenere presente. Bene, bene, grazie a Gianni Dragoni, collega del Sole 24 Ore. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane per quanto riguarda l'Alitalia. Cambiamo argomento e veniamo alla giornata di borsa. Giornata di borsa che ci aiuta ad interpretare il collega Andrea Fontana di Radio Core, il Sole 24 Ore. Buon pomeriggio, Andrea. Buon pomeriggio a te e agli ascoltatori. Andrea, allora dicevamo, ultima seduta dell'anno, dici un pochino com'è andata. Beh, è stata una seduta un po' povera di spunti, diciamo, ma comunque che si è chiusa con un rialzo sia per Piazza Affari, per quanto contenuto allo 0,16%, anche se diciamo, a poche battute dal finale erano in rialzo di mezzo punto percentuale. Una seduta che ha visto un rialzo anche nel resto d'Europa, sia a Parigi che a Londra che a Francoforte. Diciamo, nel bilancio complessivo del 2016, Londra è stata la migliore piazza europea, nonostante sia stata l'anno del referendum Brexit, della Brexit, certo, alcuni momenti di forte volatilità proprio su questa borsa, ma ha chiuso l'anno con un guadagno del 14%, mentre Milano dal canto suo ha perso il 10%, è stata la peggiore nel 2016 tra le principali borse europee. Ecco, rimanendo allora, prendiamola alla larga, diciamo così, sul cosiddetto overview sul 2016, è vero che ha perso il 10%, poteva perdere di più se non ci fosse stato un brillante dicembre? Beh, sicuramente la performance di dicembre, in particolare del settore bancario, che su Milano è quello più rappresentato per quanto riguarda almeno i 40 titoli delle società a maggiore capitalizzazione, ha chiaramente cambiato il giudizio, il bilancio complessivo dell'anno, perché è stato un dicembre particolarmente brillante, soprattutto per i bancari, ma poi anche la vicenda Mediaset ha dato abbastanza effervescenza ripartenza nell'ultima parte dell'anno, unita anche al recupero del petrolio che ha fatto scattare titoli come Saipem, come Tenaris, che invece erano stati molto penalizzati dai corsi dell'oro nero nel resto dell'anno. Quindi allora abbiamo detto Londra, il listino migliore dell'Europa, Piazza Affari ha perso un 10%, Wall Street nel 2016? Beh, siamo intorno a un più 13% per il Dow Jones, che si conferma come gli altri indici di Wall Street sui massimi storici. Si tratta per Wall Street per il Dow Jones del maggior rialzo dal 2009. Certamente guardando anche le prospettive del 2017, per quanto le politiche di Trump, dicono alcuni analisti, siano probabilmente a favore di un ciclo economico in allungo, soprattutto se si pensa a sgravi fiscali e investimenti infrastrutturali, c'è da tener conto, segnalano molti operatori, che Wall Street è in una fase di massimi storici da alcuni mesi e che l'economia americana dal canto suo è in una seconda fase di ciclo di crescita, quindi un ciclo di crescita maturo che bisognerà vedere se si rifletterà negli utili delle aziende e quindi nell'andamento dei titoli a Wall Street nel corso del 2017. Andrea, allora resta con noi, ci fermiamo per il traffico e poi affrontiamo diversi titoli di Piazza Affari. Focus Economia. Ah! 17.48, Focus Economia. Stavamo parlando con Andrea Fontana, collega di Radio Coro Il Sole 24 Ore, dell'andamento dei mercati. Abbiamo già analizzato un pochino l'andamento del 2016. Concentriamoci ora, Andrea, sulla giornata di Piazza Affari, partendo per esempio dal titolo Mediaset. Sì, sono tornati gli acquisti su Mediaset, che è tornata sopra 4,1 euro. Naturalmente tiene ancora fortemente il tema della speculazione per quanto riguarda le mosse che Vivendi potrà fare all'inizio del 2017. Oggi le ipotesi si concentrano sulla possibilità che i francesi chiedano un'assemblea straordinaria per proporre l'ingresso di suoi rappresentanti nel consiglio di amministrazione. Fino a questo momento sono ipotesi, perché la richiesta non è arrivata, ma è uno degli scenari possibili e che quindi fanno intravedere una strategia di lungo termine da parte del gruppo francese su Mediaset. È da segnalare, insieme a Mediaset, che quindi si mantiene abbondantemente sopra i 4 euro, che continua il rally della sua sorella, cioè Mondadori. Concentrata sul settore dell'editoria. È un titolo che è ai massimi da un mese, che proprio nelle ultime sedute sta vivendo un forte recupero, anche oggi più 1%, ma abbiamo visto performance da più 10 negli ultimi giorni. Qui da una parte gli analisti dicono che il titolo è ancora sottovalutato, tratta poco sopra l'1,1 euro, sottovalutato rispetto alle prospettive degli utili 2016 e 2017. Qualcun altro si spinge a dire che dopo la Rizzoli Libri e dopo Banzai Media, Mondadori abbia in cantiere altre acquisizioni nel corso del 2017. Andrea, chiudiamo questo approfondimento con i titoli bancari che chiudono l'anno con una seduta abbastanza neutrale. Questo ci aiuta poi ad introdurre anche il tema Monte dei Paschi, che affronteremo tra brevissimo nel nostro ultimo spazio. Sì, non si sono viste le vendite consistenti che avevamo visto nella prima parte di questa settimana, anche se sul finale la Popolare di Milano ha perso un altro 0,7% e così la sua promessa sposa, possiamo dire, il Banco Popolare, che dal 1 gennaio sarà efficace la fusione tra i due istituti, e dal 2 gennaio sarà quotato a Piazza Affari, quindi nella prossima seduta sarà quotato il nuovo titolo Banco BPM. Scompariranno invece i due titoli Popolare di Milano e Banco Popolare. Dicevo, Banco Popolare anche lui in flessione, mentre sono andati al rialzo Intesa San Paolo, che ha guadagnato mezzo punto percentuale, così come UbiBank più 0,5%, UbiBank che sarà probabilmente probabilmente protagonista dei prossimi giorni, perché ci si aspetta che si arrivi a conclusione l'operazione di acquisto di tre delle quattro banche che erano state salvate a fine 2015 con l'intervento del fondo di risoluzione. UbiBanca dovrebbe a questo punto quasi certo acquistare la Carichieti, Banca Etruria e Banca Marche, mentre l'ultima di queste quattro banche, cioè la Cari Ferrara, sembra destinata alla Popolare dell'Emilia Romagna. Grazie ad Andrea Fontana, Radio Corriere del Sole 24 Ore. Noi passiamo al nostro ultimo approfondimento. E andiamo a chiudere la puntata di oggi di Focus Economia con un approfondimento relativo a Monte dei Paschi di Siena, ma che insieme a Marco Ferrando, collega del Sole 24 Ore, che saluto e ringrazio. Ciao Marco. Ciao, buonasera a tutti. Vorrei poi allargare invece allo stato di salute dell'intero sistema del credito italiano, per sapere come ci affacciamo al 2017. Allora partiamo dal Monte Paschi. Oggi prevista una riunione del CDA di cui però fino a poco tempo fa si sapeva poco. Marco, si sarà parlato di liquidità, del decreto salva risparmi, ma immagino io soprattutto del piano industriale. Sì, è così. Le ultime notizie ci dicono che il CDA è iniziato da poco, in realtà un CDA veramente da capodanno, nel senso che pare che nessuno sia in banca né a Milano né a Siena, ma i vari consiglieri siano in giro per il mondo. Sì, sicuramente si starà facendo il punto sul piano industriale che a gennaio, subito inizio anno, dovrà essere presentato almeno in bozza in BCE, un piano che dovrà essere molto molto più severo di quello presentato due mesi fa, perché di fatto si dovrà arrivare a una maggiore redditività in meno tempo, e quindi per una banca per di più come il Monte Paschi non sarà facile. Sicuramente si parla di liquidità. Da oggi di fatto la banca può beneficiare della garanzia dello Stato sulle emissioni di bond, difficile che lo faccia il 30 di dicembre e così come il 3 di gennaio, però è probabile che a gennaio la banca tornerà sul mercato dei bond dopo tanto tempo di assenza, perché ovviamente con un rating così basso non era facile farlo, certo. Invece adesso la banca potrà farlo con il rating, ecco, non altissimo ma migliore dello Stato. Marco, per far capire a me e anche ai nostri ascoltatori, perché magari questi giorni si è parlato da una parte dell'aumento di capitale, ora stiamo parlando di liquidità, sono due indicatori molto importanti per una banca, ma qual è la differenza in questo caso? Sì, solitamente tra gli addetti ai lavori si dice che una banca è più facile che fallisca per problemi di liquidità che di capitale. La liquidità è la disponibilità immediata delle risorse, quindi sono gli attivi, diciamo, immediatamente stanziabili. Uso una definizione impropria, ma giusto per far capire, sono i soldi, certo, che se i correntisti un domani andassero tutti a chiederli indietro, la banca potrebbe essere in grado di dare. Il capitale invece è quello che c'è, diciamo, in cassaforte, quindi tutti gli attivi investiti, il capitale e le obbligazioni ad esempio, quindi appunto tutto ciò che è investito ma che di fatto appartiene, è il patrimonio della banca. Per ripristinare il capitale arriveranno i soldi dello Stato e la conversione dell'obbligazione. Per invece ripristinare la liquidità che è uscita nelle ultime settimane, soprattutto dopo che la situazione è peggiorata, quindi migliaia di correntisti sono andati appunto in filiale a prelevare i propri, certo, risparmi, certo, verrà ripristinata sia emettendo bond, quindi raccogliendoli sul mercato, sia affacciandosi sul mercato interbancario, cioè sul mercato che fa sì che le banche si prestino i soldi l'una con l'altra. Anche in questo caso avere lo Stato alle spalle consentirà al Monte dei Paschi di riaffacciarsi sul mercato dell'interbancario, dove ultimamente invece non poteva operare perché ritenuta troppo inaffidabile. Ecco Marco, il ministro dell'economia Padoan nel forum che ha tenuto al Sole 24 Ore nella nostra sede ha parlato di opacità nei criteri di vigilanza della Banca Centrale Europea, ha fatto quasi capire che nei confronti dell'Italia comunque c'è sempre un comportamento da parte delle istituzioni, un comportamento non chiarissimo. Ci puoi spiegare bene questo passaggio? Ma sì, perché evidentemente non è ancora smaltita la sorpresa per aver visto arrivare una lettera con una richiesta di un fabbisogno di capitale di 8,8 miliardi, un mese dopo che ancora la BCE aveva detto che 5 miliardi erano sufficienti, infatti la banca si preparava a chiederne 5 miliardi sul mercato. Effettivamente Padoan dice torna un po' a richiamare l'accusa che ogni tanto riemerge un po' di doppio pesismo, no? Quindi quando ci sono le banche italiane si è molto rigorosi, quando ci sono banche di altri paesi, per esempio Deutsche, di cui proprio l'altro giorno è stata abbassata l'asticella minima, certo, di capitale necessario, si è un po' più generosi. In realtà effettivamente quello che è accaduto è che essendo saltato il piano privato e quindi dovendo imbastire un piano alternativo, si è tornati agli scenari degli stress test di luglio, scenari che ha calcolato oggi Bloomberg venissero applicati a tutte le banche, vedrebbero altre 7-8 banche, grandi banche, in grossa difficoltà, tra cui Unicredit, Deutsche, Barclays, e qui effettivamente questo dimostra che forse Padoan un po' ragione ce l'ha. Benissimo, grazie e buon anno a Marco Ferrando, collega del Sole 24 Ore. Un ringraziamento anche a Barbara Bianchi per l'assistenza al programma, ad Alessandro Chiappini e Paolo Corleoni in regia. Un saluto ed auguri da Vincenzo Miglietta. Radio 24, libera la voglia di fare.